Bismillahi Rahmani Rahim. In questo CD sono registrati detti del profeta Muhammad, che Allah lo benedica e la ben gloria. I detti sono contenuti nel testo intitolato Insegnamenti del profeta Muhammad, che Allah lo benedica e la ben gloria, detti, dialoghi e discorsi. Sia lode ad Allah. Sia lode ad Allah, al quale è dovuta la lode in ogni circostanza. Sia lode ad Allah, il quale non ha preso figlio e che non ha condomini nel regno. Sia lode ad Allah, che ci ha guidato all'Islam, a cui non saremmo arrivati se egli non ci avesse guidato. Sia lode ad Allah per la grazia dell'Islam. Noi lo lodiamo, lo adoriamo in esclusiva e solo a lui chiediamo soccorso. Noi gli chiediamo perdono, a lui noi chiediamo protezione contro le nostre cattiverie interne e contro il male delle nostre azioni. A lui noi chiediamo di guidarci. Il ben guidato è colui che Allah guida, mentre per colui che Allah disvia non troverai maestro capace di rimetterlo sulla retta via. Io attesto che non c'è divinità tranne Allah, l'unico, il quale non ha condomini nella sua qualità divina, e attesto che Muhammad, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, è servo e apostolo di Allah, che Allah ha inviato come espressione della sua misericordia a tutti gli uomini in qualità di annunciatore della buona novella, ammonitore, chiamatore ad Allah col suo permesso e splendente luminare. In verità, Allah e i suoi angeli benedicono il profeta. O voi che credete, beneditelo ed augurategli la pace. Allahumma, esalta Muhammad e la casa di Muhammad come esaltasti Ibrahim e la casa di Ibrahim. Allahumma, benedici Muhammad e la casa di Muhammad come benedicesti Ibrahim e la casa di Ibrahim. In verità, tu sei il maestoso, il laudabile, e così sia.